Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda il tema principale di cui ci occuperemo, è chiaro che il governo ha fornito oggi, c'è un DEF, un documento di economia e finanza molto importante, dentro il quale sono contenute le previsioni sul deficit, sul PIL, ma anche e soprattutto sulle misure da prendere. Viene confermato il rischio sostanzialmente di un deficit al 3,1%. Il Premier Letta anche di questo ha parlato, ha detto sostanzialmente che pesa anche l'instabilità politica sulla interruzione della discesa dei tassi, traduco, ossia sulla riduzione dello spread, e anche sui conti pubblici, e per questo non siamo stati in grado di scrivere oggi 3% nell'obiettivo del deficit. Ora, da un punto di vista concreto, non cambia nulla che il deficit sia al 3 o al 3,1%. Il problema è che sopra il 3% l'Europa potrebbe riaprire la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ossia dire non avete rispettato gli impegni di mantenere il vostro deficit sotto il 3%. Il Premier però ha detto che gli impegni europei verranno rispettati, dell'IVA si discuterà. Letta infatti ha confermato che a fine anno comunque il deficit verrà ricondotto al 3% e non servirà una manovra aggiuntiva. Il quadro per il prossimo anno, ha detto Letta, è positivo, e a questo punto avremo anche il segno più. Su questo devo dire che il governo è abbastanza ottimista sulla crescita dell'anno prossimo, nel senso che le previsioni che noi abbiamo visto sono di una crescita tra lo 0,4, 0,5, 0,6, cito Confindustria, OCSE e quant'altro. Il governo invece stima, e lo ha fatto il ministro Saccomanni, un PIL in crescita dell'1%, cioè quindi quasi doppio rispetto alle previsioni. È ancora poco, ma sarebbe importante avere un PIL che cresce dell'1 e non dello 0,5, anche perché questo permetterebbe di ridurre in automatico il rapporto deficit-PIL, che è appunto un rapporto, e quindi di avere un po' più di risorse. Non c'è solo la crescita dell'economia, ma devo dire, attenzione, nel momento in cui tu hai un deficit che invece che fare 2,9 fa 2,6, vuol dire, diciamocela tutta, che puoi spendere, hai un margine un po' di più, hai un margine superiore perché resti comunque sotto il 3%. Letta su questo, ripeto, l'impegno nostro è stare sotto il 3%. È uscito un comunicato stampa del Ministero dell'Economia, della Presidenza, ne abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri, che assicura che all'inizio della settimana prossima il pagamento avverrà puntualmente. Confermo anche in questa conferenza stampa, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la nota di aggiornamento del DEF, l'impegno a stare sotto il 3% alla fine dell'anno. Come è facilmente intuibile, il passaggio riguarda un aggiustamento di uno 0,1, che è un aggiustamento assolutamente alla portata, che non necessiterà interventi particolarmente rilevanti, ma è anche questo, lo voglio citare e ho voluto rimarcarlo anche in questa conferenza stampa, figlio di una situazione di stabilità politica e di discesa dei tassi che da qualche settimana a questa parte si è interrotta, non per colpa del governo. E questa interruzione della discesa dei tassi e questa ripresa di instabilità politica pesa sui conti. I primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito nelle ultime settimane. E questa instabilità pesa, sono convinto che siano tutti consapevoli di questo, e questo è il messaggio politico che vogliamo lanciare. Noi siamo determinatissimi a superare questa instabilità e a superare gli scogli che da questa derivano, per mantenere l'impegno sul 3% e per mantenere poi ovviamente gli impegni sugli anni prossimi, perché dalla credibilità dei nostri, del mantenimento degli impegni, dipende anche la possibilità che io penso assolutamente alla nostra portata di convincere i mercati, i nostri partner, a darci fiducia e quindi a far calare i tassi di interesse. Il calo dei tassi di interesse è fondamentale per spingere gli investimenti, aiutare le famiglie, far scendere i mutui. E di questo parleremo anche nella seconda ora del programma, perché la conferenza stampa sui conti, sulle prospettive è arrivata nel giorno in cui, e di questo invece parleremo tra poco, abbiamo scoperto che a luglio gli ordinativi all'industria e anche il fatturato dell'industria è calato in maniera anche brusca, del 3,6% rispetto a un anno prima, il fatturato del 2%, anzi del 2,2% invece gli ordinativi, il che segnala un'ulteriore frenata. La cosa importante è che anche questa volta, io non so come farlo più capire, la stragrande maggioranza di questo calo negli ordinativi, nel fatturato della nostra industria, è da attribuirsi a una domanda interna negativa, debole, debolissima, in alcuni casi inesistente. Non è immaginabile che le imprese italiane continuino a vivere o possano vivere solo sull'export, per quanto l'export stia riequilibrando. Non tutti esportano e comunque non tutti possono fare come hanno fatto alcuni settori, cioè spostare il 70-80% del fatturato sulle esportazioni. Per cui o ripartono i consumi interni o da questa situazione non ci schiodiamo. E ne parleremo in apertura, faremo un piccolo viaggio una volta tanto non nel nord del paese ma nella dorsale adriatica, da Bari a Macerata, dorsale adriatica che ha una struttura produttiva molto simile a quella del nord-est e anche della parte emiliana del paese, quindi distretti importanti, crisi occupazionale, difficoltà nei consumi interni. Ma andiamo avanti con le altre notizie. La borsa oggi meno 0,40% Milano, meno 0,05% Parigi, meno 0,15% Francoforte, meno 0,21% Londra, meno 0,22% l'America. Male da noi Telecom Italia, meno 3,70, Tenaris meno 2,1 come Mediobanca, l'1,5 lo perde la Popolare Emilia Romagna, l'1,40 Unicredit e anche Prismian, l'1,20 è il calo del Monte dei Paschi e di Autogrill. Bene, Ansaldo STS più 2,75%, Mediaset più 1,80, Pirelli più 1,60, Campari più 1,5 come Azimut, Ferragamo più 1,26, Parmalat più 1,1%. Il numero per i vostri sms resta 349-238-6666 e quello, e poi c'è l'indirizzo di Focus Economia su Facebook. Vedo alcuni messaggi sul rapporto deficit P, vabbè, poi risponderemo. Sempre in tema di governo, sembra un po' rientrata la polemica con i comuni. Cosa era successo oggi? Il presidente dell'ANCI, Piero Fassino, in audizione alla Camera aveva detto: se entro domenica non saranno trasferiti dal governo ai comuni i 2,4 miliardi di euro che servono a coprire la cancellazione della prima rata IMU, in molti comuni al 30 settembre non saranno in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti. Allora, le rassicurazioni arrivate da Letta, che abbiamo in parte già sentito, ma le voglio far riascoltare anche perché il passaggio è molto molto breve. È uscito un comunicato stampa del Ministero dell'Economia, della Presidenza, ne abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri, che assicura che all'inizio della settimana prossima il pagamento avverrà puntualmente. E poco fa la nostra Adriana Fracchi ha raggiunto proprio il presidente dell'ANCI, Piero Fassino. Sì, ho lanciato un allarme molto semplice. L'IMU è stata abolita dal governo. Il governo si era impegnato a coprire l'introito dell'IMU per i comuni in modo tale che i comuni non avessero a soffrire. Fino ad oggi questo impegno non ha visto l'erogazione delle risorse relative e senza queste risorse si apre un buco di liquidità nelle casse dei comuni che rischia di rendere impossibile onorare impegni fondamentali come il pagamento di stipendi ai nostri dipendenti. Il governo in fine mattinata ha emanato un comunicato in cui accoglie il mio appello e assicura che entro l'inizio della settimana prossima i soldi saranno erogati ai comuni. Io prendo atto positivamente di questa dichiarazione e naturalmente adesso aspetto che i soldi arrivino davvero, perché per onorare gli impegni entro il 30 settembre bisogna sapere che ci sono delle procedure di contabilità da attivare non all'ultimo minuto. Però nessun sindaco attiva quelle procedure se non è sicuro di avere le risorse con cui poi pagare, quindi per questo questa urgenza, per onorare la possibilità di pagare gli stipendi entro la fine del mese. Così appunto il presidente dei comuni italiani Piero Fassino. Veniamo all'Italia, restiamo anzi in Italia, perché mentre sul fronte Riva oggi il ministro allo sviluppo Flavio Zanonato ha detto che l'azienda chiederà al GIP lo sblocco dei fondi e quindi poter disporre delle somme sequestrate per poter riavviare l'attività produttiva, e poi per la norma ad hoc da portare in Consiglio dei Ministri Zanonato ha detto potremmo prenderci un po' di tempo. Nell'incontro però il rappresentante dei Riva, Bruno Ferrante, ha detto che il tema della cassa integrazione non è sottoposto perché è ritenuto prematuro e prima vengono valutate altre strade prima di arrivare alla cassa integrazione sui dipendenti. I dipendenti hanno avuto lo stipendio di agosto, abbiamo fretta di ripartire per poter pagare gli stipendi di settembre entro il prossimo 10 ottobre. Definito comunque l'incontro molto costruttivo e positivo, appunto l'incontro con il ministro. Un'altra notizia di cui forse ce la facciamo, vedremo se abbiamo spazio ad occuparci, riguarda Alitalia. Sono di nuovo voci, ma voci insistenti, le riporta il quotidiano economico francese La Tribune, che dice sostanzialmente che Air France e KLM sono pronte a salire fino al 50% in Alitalia. Air France deve decidere lunedì prossimo se parteciperà o no all'aumento di capitale su Alitalia. In realtà il punto di fondo, diciamocela tutta, anche per Air France è decidere o no se salvare o meno Alitalia, di cui già al 25%. Per cento, ripeto, la riunione del CDA di Air France si terrà il prossimo 23 settembre. E poi i dati a cui facevo riferimento, meno 0,8% il fatturato a luglio, ma noi guardiamo sempre il tendenziale anno su anno, quindi luglio 2013 su luglio 2012, meno 3,6%, diciannovesimo calo consecutivo nel fatturato della nostra impresa. Io non so che quali altri dati debbano arrivare per far capire la china in cui che ha preso il nostro sistema produttivo. Diciannovesimo calo consecutivo. Ordinativi meno 2,2%, qui siamo al nono calo consecutivo. La responsabilità quasi totale è dell'assenza, quindi del calo continuo della domanda interna, dei consumi interni. Il ministro dell'economia Saccomanni ha detto comunque sono risultati che non contraddicono le nostre previsioni di una ripresa a fine anno. Il dato di luglio è stato un dato negativo in tutta Europa ed ha in un certo senso rimesso un pochettino in attenzione le previsioni per il trimestre. Però, ripeto, i dati che noi abbiamo di altre fonti continuano a sostenere che la prospettiva di una ripresa dell'economia nel quarto trimestre, che sarà positivo, e poi l'anno prossimo sono assolutamente solide. Gesti scaramantici in tutta Italia, il ministro che dice l'anno prossimo prospettive sono solide, sì, no, ce l'auguriamo. Adesso, a parte gli scherzi, gli indicatori che vediamo a livello mondiale sono di una ripresa economica ben robusta negli Stati Uniti, abbastanza significativa in alcuni paesi europei come la Germania, modesta in Italia, però insomma la tendenza è quella. Una buona notizia che arriva da Bari, perché Bridgestone ha annunciato di voler investire 31 milioni di euro nei prossimi 5 anni per consentire la riconversione produttiva dello stabilimento di Bari. Ricorderete una vicenda di quest'estate: Bridgestone aveva annunciato la chiusura dello stabilimento dove ci sono 900 dipendenti, quindi occupati. E noi da Bari partiamo oggi per questo viaggio, siamo da sud a nord, seguendo la dorsale adriatica, per raccontare quelle che sono le preoccupazioni di chi fa impresa. C'è la nostra Alessandra Tedesco, inviata a seguire la Fiera del Levante. Per anni anche questo programma era Bari in diretta alla Fiera del Levante. Ci manca un po' non essere in quella città, manca un po' i tecnici a noi. Come si mangia bene a Bari, ma chi se ne frega. Alessandra Tedesco, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, in un'economia, quella pugliese, che vale circa 63 miliardi di euro, è nona regione in Italia per le dimensioni dell'economia, abbiamo il tasso di disoccupazione però è altissimo, nel senso che è più alto della media nazionale, la media italiana è intorno al 12%, lì in Puglia la disoccupazione è già al 19%, il calo dell'export nei primi sei mesi del 2013 è stato, ahimè, significativo, quindi nemmeno l'aggancio sull'export, meno 20% verso i paesi dell'Unione Europea e meno 12% nei paesi dell'extra, fuori dall'Europa. E comunque tu hai incontrato e parlato e intervistato oggi aziende che nonostante tutto riescono a muoversi controcorrente. Sì, riescono a muoversi nonostante la crisi, perché ricordiamo che la Puglia ha sempre basato molto sull'export. Durante la crisi 2008-2012 ha segnato un più 4% nell'export. Tu giustamente citavi il primo semestre è andato male, ma ricordiamo che c'è il caso Ilva, perché come dire, la diminuzione dell'export solo del metallo di base è del 60%, quindi quel meno 20% è determinato molto dal caso Ilva. Ci sono invece esempi di imprese positive, per esempio nel campo della meccanica. Ho intervistato Michele Vinci, che è il rappresentante di questa azienda, il proprietario della Masmec ed è anche il presidente di Confindustria Bari e Bat, cioè provincia di Barletta e Trani, e gli ho chiesto soprattutto come è riuscito a traghettare bene durante la crisi, perché insomma la sua azienda continua a crescere di un circa il 10% l'anno e per il 2013 ha detto che gli ordini sono promettenti. È un'azienda che ha un fatturato di circa 15-16 milioni di euro e ha 130 dipendenti con un'età media di 40 anni, quindi tutto sommato relativamente giovani. Allora sentiamo Michele Vinci che risponde alla domanda: com'è che è riuscito a traghettare la sua impresa durante la crisi? Noi credo che abbiamo fatto nostre due pilastri che consentono lo sviluppo di un'azienda: l'innovazione e l'internazionalizzazione. Con l'innovazione abbiamo messo a punto dei nuovi prodotti oppure migliorati quelli esistenti. E con l'internazionalizzazione vediamo di avere un mercato un pochettino più stabile. Quando viene meno o si indebolisce quello italiano, abbiamo qualcun altro su cui appoggiarci. Abbiamo praticamente un core business dell'azienda, che è l'automazione, linee di montaggio robotizzate per l'assemblaggio di componentistica per auto, e anche nei periodi di crisi si sarà ridotta, si è ridotta la redditività dell'azienda, però il fatturato, gli ordini non ci sono mai mancati. Adesso devo anche dire, a conferma di qualche ripresina di cui si parla, che vedo anche molto fermento da parte delle multinazionali nelle richieste di offerta e quindi nelle prospettive che ci potranno essere a breve. In qualità di presidente Confindustria Bari, lei ha anche il quadro delle altre aziende della zona, insomma. Com'è invece la situazione in genere del comparto imprenditoriale barese? Bari, diciamo che in Puglia e la Puglia nell'ambito meridionale, diciamo che è la meno debole delle altre. Nel campo della meccanica c'è anche qualcuno che è un po' zoppica, vediamo l'OM, il Carrelli Elevatori, che ha chiuso già da un anno e mezzo a questa parte, vediamo la Bridgestone che ha ridotto il suo personale, però mediamente diciamo il settore meccanico forse sta abbastanza, ritengo che sta il meno peggio diciamo degli altri. Settore turismo sta andando bene, lo vediamo anche dai giornali. L'agroalimentare è un altro comparto che va molto bene. Quello che è stato finora un pochettino messo all'angolo è stata l'edilizia, però ogni settore ha necessità di stabilità e la stabilità politica. È inutile che si parla di riduzione di tasse se non c'è una riduzione della spesa pubblica, quindi è questo l'argomento che loro dovrebbero affrontare per primo, ma tutti quanti sono d'accordo a rinviarlo, perché toccherebbe qualcuno di loro o nell'immediato o nel futuro. Minuti, ritorna con voi Sebastiano Barisoni e Focus Economia. Allora, eravamo in collegamento con Alessandra Tedesco da Bari. Hai raggiunto anche altri imprenditori, Alessandra? Un altro imprenditore che ha puntato tutto sull'export. Prima davamo dei dati sull'export, vi segnalo anche che secondo il Centro Studi di Intesa San Paolo nei prossimi 3 anni l'export della Puglia dovrebbe crescere del 3-4%, il dato annuale si ferma allo 0,4%, quindi questo sottolinea ancora una volta che la Puglia è una regione a vocazione export. Ho sentito Milko Partipilo, che è il proprietario di EcoCart, un'azienda che produce sacchetti di carta brandizzati, quelli dei negozi per intenderci, e ha deciso di puntare moltissimo sull'export. Sentiamo perché. Il mercato italiano sta subendo un periodo di sofferenza, direi. Ci siamo rivolti a mercati esteri che, seppur hanno un costo maggiore dovuto al trasporto, perché ricordo che questo prodotto è un prodotto molto povero, quindi l'aliquota trasporto incide parecchio, però danno statisticamente una garanzia di maggiore solvibilità. E questo dà la possibilità alle aziende di crescere, di svilupparsi. A quali paesi vendete soprattutto i vostri prodotti, i sacchetti di carta? Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Inghilterra. Quanta parte del fatturato dipende dalla vendita all'estero? 35-40%, ed è un fatturato che sviluppiamo per lo più con clienti, grossisti, agenti. Quali sono le principali difficoltà nel fare impresa al sud e in Puglia nello specifico? Mi dispiace dirlo, ma i servizi che un'azienda ha bisogno e che trova nel territorio in cui si trova non sono affatto paragonabili con quelli che un'altra azienda del medesimo settore può trovare in un altro paese, ma anche a pochi chilometri da Bari. Questo mi dispiace perché entro nel dettaglio dei problemi che abbiamo. Abbiamo una zona ASI che è praticamente tenuta allo sbaraglio. Ci abbiamo dei servizi quali acquedotto, energia elettrica, spesso molto discontinui, che creano forti interruzioni, problemi. Ha mai pensato di trasferire la sua azienda in un'altra zona, magari in una regione del nord, per incrementare i profitti? Beh, se devo proprio spostarmi, non lo faccio sicuramente in una regione del nord dove la tassazione è praticamente uguale a quella italiana, ecco, questo è fuori dubbio, anche perché spostarsi di 100 km o spostarsi di 1500 km non cambia tanto il problema, ecco. Quindi andrebbe all'estero? Beh, quello sicuramente. Grazie Alessandra Tedesco in collegamento con noi da Bari, e da Bari ci spostiamo nelle Marche, risaliamo il paese, ripeto, è da sempre in questo programma, ascoltiamo i dati ufficiali, quelli macroeconomici, ma cerchiamo anche di farci raccontare da chi lavora, non che i politici non lavorino, ma da chi lavora sul territorio, quello che vede, e ecco perché ringrazio il Presidente di Confindustria Macerata, Giovanni Clementoni, scusatemi, nonché amministratore delegato della Clementoni, che per chi è stato bambino, insomma, cioè tutti noi, e chi ha bambini, insomma, significa soprattutto giochi, perdonate il conduttore, venerdì anche per me. Presidente Clementoni, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dalla Puglia alle Marche, ripeto, restiamo su quella che si chiama la dorsale adriatica, che ha un tipo di industrializzazione simile forse a quella del nord-est, quindi molta piccola e media impresa, molti distretti. Per le Marche tutti conoscono il distretto della calzatura, ma c'è il distretto del Bianco che è in grave difficoltà con la crisi dell'Indesit, c'è il distretto dei giochi che forse si conosce meno, e vi sono tanti altri distretti con una proiezione forte sull'export e però appunto con difficoltà che ricordano altre aree geografiche del paese. Un PIL, quello delle Marche, che vale 37 miliardi di euro, fatto in larga parte dai servizi, 68%, 30% industria e l'agricoltura 1,5%. Il tasso di disoccupazione, anche questo è in linea, ahimè, con il resto dell'Italia, al 10,9%, era l'8% nel 2012, quindi è salito molto. E però nei primi sei mesi del 2013 voi siete riusciti ad aumentare le esportazioni del 15% verso i paesi dell'Unione Europea e del 9% fuori dall'Europa. Le chiedo, lei si ritrova nel dato di oggi complessivo dell'Istat che segnala una frenata degli ordinativi industriali a luglio, meno 2,2% rispetto all'anno prima, con un ribasso forte soprattutto sul mercato interno, quindi consumi interni ancora e continuamente in calo? Ma guardi, che i consumi interni siano in calo è un dato di fatto. Purtroppo la situazione economica generalizzata di crisi che in qualche maniera colpisce questo paese ormai da troppo tempo sta colpendo direttamente le famiglie, e evidentemente le famiglie sono poi quelle che creano i consumi, che evidentemente poi creano il mercato interno. È chiaro che chi in passato è riuscito in qualche maniera o si è adoperato per avere mercati di sbocchi internazionali probabilmente ha modo e maniera di compensare questo caso. Ma è chiaro che la situazione rimane estremamente difficile. Questa è una zona in particolar modo che è espresso una vocazione manifatturiera molto molto molto profonda in passato, ed è chiaro che in questo momento paga conseguenze più grandi, perché comunque le piccole e medie imprese che hanno rappresentato il cuore portante di questa economia in questo momento sono quelle che in qualche maniera risentono maggiormente di questa crisi diffusa, che è una crisi ormai, voglio dire, estremamente tangibile. Poi all'interno di una compagine così negativa sicuramente ci sono aziende e imprese che evidentemente continuano a sviluppare, a creare occupazione, ma purtroppo, voglio dire, sono casi troppo isolanti. Allora, da questo punto di vista il vostro problema, perché qui insomma abbiamo un'Europa sempre molto preoccupata sull'Italia nel mantenimento del deficit promesso sotto il 3%, un'Italia che il prossimo anno crescerà di uno 0,5, 0,6, 0,7 a seconda delle stime, ma non si va oltre quello. Quest'anno il PIL calerà di quasi il 2%, almeno meno 1,8, meno 1,9. Le chiedo, quello che voi sentite come maggior freno che cos'è? Sono i costi e i cosiddetti oneri impropri, per cui voi avete anche dei costi indiretti di burocrazia, di vincoli, anche lunghe, o il rapporto col mondo bancario, perché lei opera in una regione che purtroppo ha visto una banca come Banca Marche fare operazioni scriteriate, finire commissariata e creare anche un bel buco nei bilanci. Prego. Sì, guardi, purtroppo non c'è un freno solo. In Italia, specialmente chi ha opportunità, come capita a noi imprenditori, di stare all'estero, di frequentare altri ambienti, ci si rende conto della situazione difficile in cui opera un'impresa in Italia. Quella per questioni strutturali e per questioni proprio di organizzazione e di visione strategica verso l'impresa da parte di chi dovrebbe organizzare e portare avanti politiche industriali integrate. Si aggiunge sicuramente la situazione del credito, che è una posizione tipicamente, o meglio tipicamente, come sottolineava lei, molto in questo momento, che coinvolge molto il territorio marchigiano, ma che chiaramente è una situazione molto più estesa che non solo nelle Marche, e questo sicuramente non aiuta. E poi alla fine c'è anche una posizione in qualche maniera di una situazione politica di stallo da troppo tempo, che deve risolverci qualche problema, perché obiettivamente fare impresa in Italia per tutti, e non solo i lacci e laccioli, ma per condizionamenti proprio ambientali, sta diventando sempre più difficile. Ma mi dica una cosa, lei che insomma guida anche il gruppo Clementoni, quindi è sul mercato, in questo momento la cosa, intanto quanto reggete, cioè, con i segnali che stanno arrivando, ma soprattutto la cosa di cui avete più disperatamente bisogno, qual è? Se lei potesse scegliere, se io fossi Aladino, vi do una cosa, perché io capisco anche un governo che ha risorse praticamente pari a zero, se le giocate quasi tutte, se trovare la copertura sull'IMU, e in questo momento non ha dei gran margini con una ripresa così, così modesta nel 2014. Qual è la prima cosa di cui lei sente la necessità? Senta, Barisoni, lo Stato italiano ha una risorsa celata, che è determinata dall'inefficienza della macchina statale, e questa chiaramente crea una condizione che, qualora si avviasse e si decidesse di cominciare a risolvere, creerebbe grossissimi fondi da destinare a quello che io ritengo sia il motore poi dell'economia, cioè l'occupazione. E l'occupazione, cioè, lei vuole una riduzione del cuneo fiscale in busta paga, cioè la prima misura che dovrà prendere. La riduzione del cuneo fiscale vuol dire, in qualche maniera, se la riduzione del cuneo fiscale vuol dire avere un costo del lavoro più più idoneo, in qualche maniera, a costituire un motore per la produzione industriale anche delle aziende manifatturiere, questo sì, sicuramente è un punto. Sicuramente il cuneo fiscale per un'azienda, il cuneo fiscale, i costi del lavoro indotti dalle richieste dei vari enti sono esagerati. Chiunque abbia impiegati su mercati esteri, abbia aziende all'estero, questo lo sa perfettamente. E la Clementoni, cioè quello che le vede come imprenditore invece? Beh, per quello che ci concerne, noi siamo nati in Italia, siamo cresciuti in Italia, e quindi quando all'estero ci dicono ma come fate, essendoci nati abbiamo imparato a navigare. No, ma dico, lei che segnali vede? Un calo continuo? Per quello che ci concerne, appunto, navigando in queste condizioni, probabilmente la nostra azienda sta mostrando comunque possibilità, in qualche maniera, di procedere verso una via tracciata in passato, e quindi di espansione dei mercati esteri. E cioè anche voi puntate italiano sull'estero, perché l'Italia c'è poco. Guardi, noi puntiamo sull'estero, ma puntiamo molto anche su una tenuta del mercato intero. Tra le altre cose, una cosa che abbiamo fatto ultimamente è quella di aver reintegrato e riportato in Italia tante, noi siamo un'azienda produttiva, anche tante lavorazioni che in qualche maniera avevamo delegato all'estero, principalmente nell'Estremo Oriente, e questo qui chiaramente lo stiamo facendo, facendoci aiutare da quell'indotto che in qualche maniera in questo momento sta faticando a trovare gli sbocchi. In bocca al lupo a tutti gli industriali delle Marche, e finalmente agli industriali anche di Macerata che lei rappresenta. Grazie al presidente, appunto, di Confindustria Macerata, Giovanni Clementoni. Arrivederci. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il nostro sogno di oggi, lo dico col massimo rispetto per il gruppo Alitalia, che ha tutto il nostro rispetto, è non doverci più occupare di Alitalia. Ce l'avrebbero pagata bene i francesi, qualcuno ricorderà, ma eravamo in periodo elettorale 2008, 2 miliardi. Adesso, se va bene, da quello che capisco io, forse partecipano all'aumento di capitale per salvare l'Italia, ponendo condizioni molto molto dure: niente debiti, maggiore ingerenza nella gestione, maggiore anche le rotte praticamente confluire tutte, portare tutte su Parigi, cioè torneremo al punto in cui ci eravamo lasciati nel 2008 con quella polemica continua senza aver salvato all'Italia, avendo creato anche una bad company e avendo utilizzato anche i soldi degli imprenditori che hanno partecipato a quella cordata, diciamo, bruciando un po' di risorse. Questo era il nostro sogno, all'Italia veniva privatizzata nel piano originario e poi veniva gestita come il resto del gruppo Air France KLM. E invece, a distanza di 5 anni, in un paese in cui il passato torna continuamente, siamo di nuovo ad occuparci di Alitalia. Perché? Perché da più parti, ultimo il quotidiano economico francese La Tribune, si avanza l'ipotesi che già dal CDA del prossimo 23-24 settembre Air France possa valutare se salire al 50% in Alitalia, adesso ne ha il 25%, diventando di fatto il controllore unico, però non vuole mettere i soldi. I have a dream. And one day on the Red Hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Di nuovo in diretta, sì, lo so, fu Berlusconi a volere, è noto, poi vinse anche le elezioni, insomma, a volere all'Italia, da questo punto di vista, che restasse italiana, la cordata italiana. Devo dire che personalmente, chi va a riascoltarsi quelle puntate può verificarlo, noi non avevamo dubbi, all'Italia doveva uscire dal perimetro dello Stato italiano, essere privatizzata, andare ai francesi, mi dispiace, ma insomma questo è il mercato. Adesso si è sfilato l'altro possibile compratore, che è la compagnia aerea di Abu Dhabi, Etihad, perché il numero uno James Hogan ha detto poco fa che la sua priorità non è più all'Italia ma è comprare la compagnia indiana Jet Airways, per cui si capisce che non sono più interessati ad all'Italia. È vero che in quella cordata, in quell'operazione, fu salvata anche Air One, è verissimo che Air One era messa in condizioni economiche anche peggiori di Alitalia, è verissimo che vi fu anche il ruolo di Intesa San Paolo, era il numero uno dell'accordo Passa, insomma tutte cose che abbiamo raccontato. Air One doveva molti soldi proprio a Intesa San Paolo. Non c'è nessun commento, non se ne abbia nessuno, per cui sono tutte cose agli atti, e le raccontò in quegli anni, le ha continuate a raccontare molto bene il collega del Sole 24 Ore, Gianni Dragoni. Buonasera Gianni. Buonasera, ciao. Tu puoi correggermi se sbaglio, perché ne sai molto molto più di me, insomma quella fu la dinamica, un motivo politico, salviamo l'Italia, e anche il modo per salvare Air One, ok? Ma non voglio tornare sul tema. Mi dici a questo punto che cosa succederà da qui al 24, quando c'è il CDA di Air France, perché insomma Air France vuole comprarsi l'altro 25% di Alitalia, parteciperà all'aumento di capitale, che condizioni pone? Il punto da cui partirei è le condizioni dell'Alitalia, perché il discorso poi ruota attorno a questo. L'Italia ha di nuovo finito i soldi, in quest'inverno aveva tentato un mini aumento di capitale, un prestito convertibile, e i soci, compreso Air France, hanno versato 95 milioni di euro, mentre una parte dei soci italiani non hanno messo la loro quota, dovevano essere 55 milioni. Quindi c'è già questa spaccatura tra l'azionariato, una parte ha sostenuto la compagnia che continua a volare in condizioni difficilissime, ha perso nei primi sei mesi più di 200 milioni, giovedì prossimo sarà pubblicata la semestrale, quindi conosceremo la cifra, ma quindi condizioni drammatiche. E quindi ci sarà bisogno di nuova finanza, quanto? 400, probabilmente 500 milioni è la richiesta che la compagnia sta discutendo con le banche e con gli azionisti. Allora chi è che mette questi soldi? Una parte dei soci italiani o non vogliono o non possono perché hanno vari problemi, quindi non si può far conto su quelli. Air France, che è lì dal 2009 comunque per crescere nell'Alitalia, molto probabilmente è disponibile a versare una parte, la sua parte, senza svenarsi, ma senza neppure buttarli in un buco. Quindi le condizioni sono che ci possa essere un piano industriale, può essere anche una ristrutturazione, quindi può darsi che ci saranno degli altri sacrifici, ma saranno necessari anche degli investimenti in aerei, quello che in questi anni l'Alitalia non ha fatto, solo dei piccoli aerei sono entrati, per il resto sono state tutte sostituzioni. L'incognita è chi metterà altri soldi. Allora Air France probabilmente, se mette la sua parte e i soci italiani, solo alcuni faranno l'aumento di capitale, inevitabilmente la quota di Air France potrebbe aumentare. Questo è quello che probabilmente succederà. Questo non basta però, perché bisogna che anche alle banche viene chiesto un ampliamento dei crediti, dei prestiti. La situazione comunque è molto difficile. Però il 23-24 mi confermi che dovrebbe sciogliersi questa riserva di Air France, sì o no? Dunque, il consiglio di Air France si dovrebbe riunire nei primi giorni della settimana. Il giorno in cui poi la decisione viene formalizzata, credo che sarà quando il 26, sì, cioè giovedì, ci sarà il consiglio all'Italia. Cioè. Hey, 18:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni e chiusa, si fa per dire, per ora la parentesi su Alitalia. Adesso andiamo a occuparci di borsa. -0,50% l'ultima seduta a Milano, invariata Parigi, -0,20% Francoforte, -0,44% Londra. L'America in questo momento sta perdendo lo 0,40% con un euro a quota 1,35,23. I titoli: Ansaldo STS +2,5, Mediaset +1,70, come Azimut, Pirelli +1,60, Campari +1,30, Pop Milano +1,1%. Fronte opposto: Telecom Italia -3,40%, Tenaris -2,5, Mediobanca -2,30, Pop Emilia Romagna -1,80, Unicredit -1,60, Prismian -1,5, Autogrill -1,20, Saipem anche perde -1,20 e il Monte dei Paschi +1%, come Buzzi Unicem e Intesa San Paolo -0,90% invece Fiat Industrial. Come sempre con Radio Cori Sole 24 ore, Chiara Di Cristoforo, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, tra i titoli, oggi le banche sono tutte un po' deboli, non ho visto però grosse novità sullo spread, ma soprattutto cala, e in maniera anche significativa, Telecom Italia. Non è uscito nulla di importante, di decisivo dalla riunione informale dei consiglieri ieri, quindi... Quindi si continua ad aspettare il 3 ottobre, continuano a esserci le indiscrezioni sui giornali, le ipotesi, gli scenari, ma siamo di fatto sempre allo stesso punto con Telefonica che potrebbe forse a breve portare in consiglio una proposta da sottoporre ai soci italiani per rilevare il controllo del gruppo, altri dicono in realtà Telefonica è più attenta a controllare il livello del suo di indebitamento e quindi preferirebbe un mantenimento della situazione attuale per almeno i prossimi 6 mesi. Questa potrebbe essere un'altra ipotesi. Bernabé dal canto suo vuole l'aumento di capitale e, secondo alcune indiscrezioni che sono arrivate ieri dalla Spagna, lui legherebbe proprio la sua permanenza alla guida di Telecom Italia all'approvazione del consiglio di questo aumento, ma i soci insomma non sembrano molto disposti a mettere altri soldi in Telecom. E poi oggi anche un altro scenario potrebbe essere quello della vendita di TIM, cioè della parte mobile e delle attività in Brasile, a fronte dello scorporo della rete che resterebbe invece in capo a Telecom. In questa ipotesi entrerebbero altri investitori italiani come Fossati, F2I, Cassa di Previdenza. Il gruppo potrebbe incassare 25 miliardi e diminuire il livello di indebitamento. Di fatto il titolo resta volatile e volatile resterà almeno fino al 3 ottobre, se il 3 ottobre sarà una data decisiva. Bene invece oggi un titolo come Ansaldo STS +2,50%, bene anche Mediaset +1,70%. Sì, allora su Ansaldo sono tornate ancora le voci di vendita. Ansaldo è in vendita, è in vendita da tempo, e anzi è una vendita che doveva già concludersi in realtà. Allora, qui da una parte c'è il piano di privatizzazione e destinazione Italia varato dal Consiglio dei Ministri, che prevede la cessione di quote di diverse società pubbliche, e quindi questo come dire, sembra dare la spinta alla vendita. Poi è tornata a parlare Hitachi Rail, la società giapponese che già si era detta interessata ad Ansaldo STS, ha ribadito un forte interesse. A Cernobbio anche i vertici di General Electric avevano detto che erano interessati al gruppo nel caso fosse stato nuovamente messo sul mercato, quindi le voci sono queste. Sempre restando nel gruppo, invece, Finmeccanica, c'è da ricordare che stamattina aveva aperto in calo del 2% dopo il downgrade di Moody's sulla qualità sull'abbassamento del giudizio, diciamo. Esatto, sì. Sull'abbassamento del giudizio, sostanzialmente abbassato a livello spazzatura, quindi il gradino più basso. L'apertura è stata molto negativa, invece il titolo poi ha recuperato un più 0,6%, diciamo che era una notizia che per lo stato della società già si aspettava. E citavi poi Mediaset, sì, perché ieri andava male per Barclays, oggi va super Morgan Stanley. Noi non siamo dei grandi amanti, anzi non li amo proprio i report delle banche, perché finché non ci chiariscono come sono esposte su quel titolo, io insomma il report lo prenderei con le pinze, però... Però questo ci dà l'idea di quanto sia volatile il titolo Mediaset di fatto, appunto. Un giorno scende se Barclays dice che taglia la raccomandazione, Morgan Stanley dice che l'aumenta, tra l'altro ha aumentato solo il prezzo obiettivo ma ha mantenuto il giudizio neutrale, quindi non è un consiglio di acquisto, e il titolo però è salito tanto. Ma Mediaset, abbiamo detto nei giorni scorsi, è in un'ondata, diciamo, positiva anche in vista della ripresa del mercato pubblicitario, ma sta facendo degli strappi molto violenti sia in rialzo che in discesa, anche legate alle questioni politiche. Ancora tra i titoli, oltre Ansaldo, Finmeccanica, Telecom e Mediaset, tra le banche a resistere oggi è stata soprattutto la Pop Milano, più 1,1%. Lunedì prossimo, Chiara, ci sarà il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione. Sì, infatti sarà una giornata decisiva, il Consiglio di Gestione è mattinata, il pomeriggio quello di sorveglianza, e dovranno approvare le lettere di risposta a Banca d'Italia. Nel dettaglio, il Consiglio di Gestione preparerà un documento sui rilievi gestionali che sarà poi formalmente approvato dal Consiglio di Sorveglianza nel pomeriggio, mentre i singoli consiglieri di sorveglianza risponderanno in merito alle sanzioni e al procedimento di sanzioni aperto sempre dalla Banca d'Italia. Sulla Popolare di Milano poi si torna a parlare di trasformazione in società per azioni, seppur ibrida, un progetto su cui sarebbe tornato a lavorare il presidente Andrea Bonomi, e questo ha fatto sì comunque che gli acquisti tornassero sul titolo. Migliori e peggiori in assoluto oggi: RG Capital più 19,90, Investimenti e Sviluppo più 8,90, ROS più 6%, fronte opposto Invest meno 7,80, Gruppo L'Espresso meno 5,90, SEAT Pagine Gialle sulle ordinarie meno 5,90, e poi Telecom Italia, abbiamo detto, sulle ordinarie meno 3,40. Grazie e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi. Grazie Chiara Di Cristoforo, a te e a tutti i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore. Grazie Sebastiano, buon weekend. Eh sì, la testa deve essere una giungla, lo dico con massimo rispetto, per il governo in questo momento, una giungla anche bella intricata. Perché? Perché da un lato il Premier Letta oggi in conferenza stampa, dopo la presentazione del DEF, del documento di programmazione economico-finanziaria, ha detto il deficit non possiamo scriverlo sotto il 3%, perché l'instabilità politica ci ha portato a questo, quindi sarà 3,1%, però... A fine anno manterremo gli impegni con l'Europa. Nel frattempo il ministro dell'economia ha detto: beh, insomma, il prossimo anno ci aspettiamo di crescere dell'1% e non dello 0,5%. Ed ecco perché la canzone "La mia testa è una giungla" ci sembrava quella più appropriata. Il Premier Letta sul deficit e l'impatto dell'instabilità politica. Confermo anche in questa conferenza stampa, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la nota di aggiornamento del DEF, l'impegno a stare sotto il 3% alla fine dell'anno. come è facilmente intuibile, il passaggio riguarda un aggiustamento di uno 0,1, che è un aggiustamento assolutamente alla portata, che non necessiterà interventi particolarmente rilevanti, ma è anche questo, lo voglio citare e ho voluto rimarcarlo anche in questa conferenza stampa, figlio di una situazione di stabilità politica e di discesa dei tassi che da qualche settimana a questa parte si è interrotta, non per colpa del governo. E questa interruzione della discesa dei tassi e questa ripresa di instabilità politica pesa sui conti. I primi mesi di vita del governo hanno avuto una stabilità che non ha avuto seguito nelle ultime settimane. E questa instabilità pesa, sono convinto che siano tutti consapevoli di questo, e questo è il messaggio politico che vogliamo lanciare. Noi siamo determinatissimi a superare questa instabilità e a superare gli scogli che da questa derivano, per mantenere l'impegno sul 3% e per mantenere poi ovviamente gli impegni sugli anni prossimi, perché dalla credibilità dei nostri, del mantenimento degli impegni, dipende anche la possibilità che io penso assolutamente alla nostra portata di convincere i mercati, i nostri partner a darci fiducia e quindi a far calare i tassi di interesse. Il calo dei tassi di interesse è fondamentale per spingere gli investimenti, aiutare le famiglie, far scendere i mutui. Sarà, è così, ci mancherebbe. Massima fiducia nell'impegno del Premier Letta per riportare il deficit sotto il 3,1%, ma pochi minuti fa dall'Unione Europea qualche dubbio è arrivato, perché il portavoce del Commissario Europeo agli affari economico monetari Olli Rehn ha detto: aspettiamo di vedere i dettagli delle misure che andranno prese chiaramente nelle prossime settimane in modo tempestivo. Siamo già a fine settembre, sembra più rimprovero di una professoressa o uno studente che una nota dell'Unione Europea. Occorre mantenere le coperture, se aumentare l'IVA o meno è una decisione politica che deve prendere il governo, l'importante è che venga mantenuta la stessa copertura delle spese. E sempre a proposito di una testa che è una giungla, la giungla è anche qualcosa di vivo, di creativo, però insomma non di proprio limpido, io vorrei sapere dal ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni come mai il PIL, io sono contento, il prossimo anno crescerà non come dicono altri istituti, Confindustria, Fondo Monetario, OCSE, 0,5-0,7%, ma dice Saccomanni addirittura dell'1%, che vorrebbe dire una buona cosa, una crescita leggermente più significativa. Il ministro: noi prevediamo per il 2014 un tasso di crescita per effetto di questo impatto positivo delle riforme dell'1%, che è una cifra leggermente superiore a quella che viene stimata dai principali previsori, proprio perché riteniamo di poter con cognizione di causa dare una valutazione che, ripeto, non è euforica né trionfalistica, ma realistica dell'impatto che si può avere sul PIL già nel 2014. Questo stesso processo ci porta ad arrivare quasi al 2% di crescita nell'arco del periodo previsionale, e quindi diciamo ci mette su un sentiero chiaramente più positivo di quello che storicamente l'Italia ha avuto anche nel decennio precedente la crisi del 2009 in poi. Ha Allora, no, vedo molti commenti sulla base che abbiamo preso. La mia testa è una giungla e questo hey insistito è un hey che io vorrei dare proprio al ministro, al presidente del consiglio. Dino Pesole, voce, firma, mente, anche mente, va bene, del Sole 24 Ore, quando analizziamo i conti pubblici. Buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, io non so come sia la tua testa, ma io oggi ho letto, Letta dice, noi dobbiamo scrivere 3,1 ma al 3 lo porteremo. L'Europa, ho appena letto le agenzie, un po' preoccupata, vuole chiarimenti in modo tempestivo sulle coperture, al di là dell'IVA, non è un problema europeo, ma vogliamo sapere come sono le coperture. Il ministro Comanni dice, cresceremo di quasi il doppio rispetto alle attese, io prendo tutto per buono e giro a te la palla, che devo fare? Sì, prendiamo per buono per quello che valgono le stime e le previsioni nel corso dell'anno. È del tutto evidente che si tratta poi di variabili che sono sottoposte a mille oscillazioni. Non a caso ricordo che in aprile le stime che vennero messe a punto dal governo Monti e poi sottoscritte anche dall'attuale governo sono state riviste al ribasso per quel che riguarda la crescita, al rialzo per quel che riguarda il deficit. Quindi è abbastanza prevedibile che queste stesse stime debbano essere ulteriormente limate. Però su che cosa basa questa iniezione di fiducia il governo? Sostanzialmente su questa ipotesi che le misure che sono state adottate, in particolare questa nuova iniezione di liquidità che dovrebbe essere immessa entro l'anno, i 7,2 miliardi di cui abbiamo parlato altre volte, sotto forma di crediti commerciali che vengono restituiti alle imprese, che abbiano un impatto positivo pari allo 0,1% del PIL. Cioè parte, piccola parte, sì, dei 100 miliardi che la pubblica amministrazione deve alle imprese, 7 miliardi, in tutto il governo aveva promesso 40 fino alla fine, ma insomma 7 miliardi sì, arriveranno entro dicembre e il governo dice, beh, questo avrà un impatto sull'IVA, perché comunque, ma soprattutto anche sull'economia, quindi ci attendiamo non uno 0,5 ma un 1% di crescita, ho capito bene? Esatto, e poi una, non solo, ma anche le altre misure che sono nel decreto varato a fine agosto, che sono gli incentivi ad esempio sul fronte degli immobili per le nuove coppie, insomma ci si attende che le agevolazioni che sono state inserite diano una spinta anche sul fronte dell'edilizia. Qua si tratta appunto di scommesse. Per quanto riguarda l'Europa, è tutto evidente che l'Europa non possa far altro che dire, se questo è l'impegno del governo, noi diamo credito all'impegno politico del governo. Certo. Ma il problema è un altro. Il problema è che lo stesso Renner, commissario agli affari economici, proprio martedì scorso ha detto chiaramente qui che il problema non sono tanto gli impegni politici quanto le coperture, e qui c'è il problema, perché lo stesso decreto IMU che è all'esame del Parlamento ha 1,5 miliardi che balla, e qui siamo già al primo punto. Cioè, non sono, è l'unica cosa che balla in questo paese. Senti Dino, però ti risulta che il governo stia spingendo su Bruxelles per vedere almeno il prossimo anno non conteggiati nel deficit alcuni investimenti infrastrutturali, tra cui la TAV per esempio? Il che permetterebbe di avere, a seconda dei calcoli, dai 3 ai 4 miliardi di maggiore margine? Sì, sì, ci risulta assolutamente, ma questa non è una novità, né una di oggi. È la conferma di quello che poi si è detto a maggio, quando noi siamo usciti dalla procedura per disavanzo eccessivo, quando si disse, cara Italia, sei ritornata tra i virtuosi. Questo vuol dire che dal prossimo anno, se resti virtuosa, vale a dire se resti entro i tetti del deficit, potrai spendere un X di finanziamenti sotto la forma del cofinanziamento, però attenzione che qui anche c'è la sorveglianza europea, in progetti comunitari che possono valere anche, sì, anche lo 0,5, lo 0,7 del PIL, fino a 7-8 miliardi. Il problema è solo infrastrutture, quindi spese per investimenti molto importanti per noi, ma a patto che si sia in grado anche nell'anno prossimo di mantenere gli impegni. Dunque è una scommessa, ci sono vari passaggi prima di vincerla, e sono tutti passaggi che ai noi sono concentrati in poche settimane, perché poi questo è il punto, si tratta di scegliere. Oggi una delle notizie che abbiamo, che circola, e che il governo avrebbe riaperto il dossier sull'IVA, cioè fino a 2-3 giorni fa sembrava impossibile trovare il miliardo per rinviare sì. l'aumento dell'IVA. Adesso pare che invece il governo si stia lavorando nuovamente e quindi si tratta di un miliardo da trovare entro una settimana, questo è poi alla fine 10 giorni. E poi a metà ottobre che si fa con l'IMU, che costa 2,3 miliardi, l'abolizione anche della seconda rata? Qui si tratta di questioni che richiedono scelte politiche e l'indicazione di alcune priorità che il governo secondo me dovrà rapidamente fare, perché sennò non si capisce in che direzione stiamo andando, cioè se si sì. Ragiona in termini, come dire, di... Dobbiamo chiudere da questo punto di vista, è chiarissimo che insomma, a questo punto, riaprendo anche il dossier IVA, tu devi reperire queste risorse. A me non resta che ringraziare Dino Pesel, ringraziare voi in ascolto, augurando buon fine settimana, soprattutto chi lavora. Noi lunedì te lo andremo a raccontare, vedremo anche cosa sarà successo nel fine settimana. E un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Radio 24. La passione si sente.